2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 27 novembre 2010. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale, prima di tutto, che è 2024, scritto in cifra 2024@radio24.it. Potete scriverci per qualsiasi motivo, prima o poi cercherò di rispondere. Oppure un'altra informazione importante prima di iniziare con le notizie della settimana, i nostri approfondimenti, è quella relativa al podcast. Sono sempre più le persone che settimana dopo settimana scaricano il file MP3 della nostra trasmissione, lo tengono nei propri computer, nel proprio archivio, ma soprattutto se lo portano in giro magari con un lettore MP3 oppure con un CD sulle autoradio delle automobili che in molti casi purtroppo non sono ancora sviluppate e faticano ad accogliere le nuove tecnologie come le chiavette USB. Alcune notizie della settimana. La prima mi ha incuriosito, è un rarissimo esemplare di Apple One, il primo computer prodotto commercialmente dalla Apple, che è stato venduto questa settimana all'asta da Christie's a Londra per, pensate un po', 156.000 euro. L'acquirente è un italiano, magari lo cercheremo nelle prossime settimane, Marco Boglione, un collezionista italiano di high-tech. Sono, secondo i collezionisti, secondo le informazioni che arrivano anche da Christie's, sono pochissimi gli esemplari di Apple One sopravvissuti fino ad oggi ed è rarissimo trovarne in buone condizioni come quello acquistato appunto pochi giorni fa. Il computer è stato venduto completo della sua confezione originale e c'è anche una lettera firmata da Steve Jobs in persona che spiega all'acquirente quali tastiere e monitor fossero più adatti e offre consigli su come utilizzare al meglio il prodotto. Un'altra notizia che arriva dagli Stati Uniti riguarda Richard Branson, il miliardario inglese fondatore della Virgin, che lancerà la sfida a Rupert Murdoch sull'iPad. La prossima settimana verrà presentato a New York The Project, un magazine multimediale rivoluzionario costruito proprio per l'iPad. The Project punta a fare concorrenza al The Daily, che è stato annunciato da Murdoch, che sta lavorando a questo progetto da circa 3 mesi con uno staff di circa 100 neoassunti. Quindi vedremo nuovi prodotti per iPad in un primo momento, ma che poi sicuramente si diffonderanno su altre piattaforme per altri tablet, immagino principalmente. Alcune notizie dall'Italia. Da ieri sono passate definitivamente al digitale terrestre il Piemonte orientale, la Lombardia e le province di Parma e Piacenza. In queste aree quindi sono completamente spenti i segnali analogici delle TV terrestri. Se in questo weekend qualcuno non vede alcuni canali del digitale terrestre, ricordate che è necessario effettuare nuovamente la sintonia, visto che negli ultimi giorni sono stati fatti alcuni spostamenti di frequenze, alcune accensioni di nuovi impianti. Da oggi inizia invece la fase di switchover, cosiddetta nel resto dell'Emilia Romagna, in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Anzi, stiamo parlando dello switch off, cioè lo spegnimento dell'analogico che in quest'area, così come nelle altre aree, durerà fino al 15 dicembre, quando si passerà completamente al solo digitale. A proposito di tecnologia televisiva digitale, TIM, il gestore di telefonia mobile, ha annunciato lo spegnimento alla fine dell'anno del servizio e delle relative frequenze del DVB-H, cioè il digitale terrestre per i telefonini. Probabilmente anche Vodafone farà lo stesso, mentre l'unico operatore che crede in questo servizio è Tre. Wind, ricordiamo, non ha mai lanciato questo servizio che in effetti non ha mai avuto molto successo. Da una tecnologia oramai vecchia come quella del digitale terrestre ad una invece di ultima generazione. Visto che la domanda di collegamenti ad internet cresce di molto, anzi cresce così tanto, che anche i gestori di costellazioni satellitari stanno facendo nuovi ordini ai costruttori di satelliti. In questo settore sono attivi, lo ricordiamo, in Italia Astra con l'offerta Astra to Connect ed Eutelsat con l'offerta Two Way. Eutelsat, per potenziare la propria flotta, lancerà a breve un satellite dedicato solo a collegamenti internet, un satellite tecnologicamente molto avanzato, si parla di un lancio nelle prossime settimane, almeno alla metà del mese è previsto, ma sapete come vanno le cose in questo settore, ci sono sempre imprevisti e quindi si sposta in là il lancio. C'è anche però un nuovo operatore che ha lanciato il primo satellite di proprietà, parliamo della britannica Avanti Communication. Ieri un vettore Ariane 5 ha mandato in orbita lo Hylas One, destinato a fornire servizi broadband all'Europa. Questo è un tema molto interessante, magari ne parleremo nelle prossime puntate. Ricorderete che abbiamo parlato più volte delle cosiddette Connected TV, le TV che possono essere collegate ad internet e ricevere quindi contenuti dalla rete. Alcuni produttori di TV hanno realizzato proprie piattaforme di distribuzione per erogare contenuti sui propri televisori. Bene, questa settimana ha fatto il proprio ingresso in Italia Curiosity, il servizio di video on demand disponibile in esclusiva per i TV e i lettori Blu-ray della Sony, naturalmente TV e Blu-ray di ultima generazione. I film, giusto per avere un'idea, possono essere soltanto noleggiati. I prezzi vanno da 2,99 € per i titoli in catalogo ai 3,99 € per le novità, mentre i contenuti in alta definizione costano 1 € in più. Una volta noleggiato un film, si hanno 14 giorni per iniziare la visione, che va conclusa entro 48 ore. Un'ultima notizia arriva dalla Svezia. Ricorderete sicuramente il caso The Pirate Bay. La Corte d'Appello di Svezia ha emesso il verdetto di secondo grado che vede imputati gli amministratori del celebre portale per la ricerca di file torrent, quindi per scaricare musica spesso illegale su internet. Sono state ridotte le pene, che vanno al massimo fino a 10 mesi, ma sono state aumentate le multe da pagare all'industria dei contenuti, che sono pari a circa 5 milioni di euro. La Corte ha ritenuto che il sito abbia facilitato il file sharing illegale in maniera tale da rendere punibili i gestori del servizio. Naturalmente i ragazzi di The Pirate Bay hanno annunciato ricorso alla Corte Suprema. Adesso 2024 riparliamo di web radio e web TV, un argomento che ci sta particolarmente a cuore, anche perché in settimana l'Authority per le comunicazioni ha stabilito una serie di norme e sono le prime regole che dovranno seguire le radio e le TV che trasmettono su internet, anche se è un po' difficile definire in alcuni casi, certo, una radio o una TV. Alcuni siti propongono video, alcuni siti propongono audio, sono TV, sono radio. La questione è dibattuta ed è sicuramente complessa. Saluto Alessandro Longo. Alessandro, bentornato 2024. Grazie, saluto gli ascoltatori. Tu hai seguito questa vicenda dalle prime bozze che sono circolate la scorsa settimana. Ricordiamo agli ascoltatori che si fossero persi la precedente puntata, avevamo parlato di una serie di bozze che erano girate molto criticate dalla rete, cose assolutamente incredibili, e fortunatamente l'Authority ha rivisto parte di queste bozze e diciamo le norme che sono state approvate sono sicuramente migliori, forse per alcuni potrebbero sembrare medievali, comunque regole che non c'entrano nulla con internet. Tuttavia, che cosa ha stabilito l'Authority questa settimana? Ha stabilito alcune cose molto importanti, perché effettivamente, come dicevi tu, sono le prime norme che riguardano le web TV e le web radio, che prima in Italia, cioè finora in Italia, erano del tutto libere, senza burocrazia, obblighi di nessun genere. Allora, la prima cosa che ha stabilito è quali di questi soggetti sono soggetti alle norme? Allora, sono soggetti solo quelli che guadagnano, anzi ricavano, più di 100.000 euro l'anno dall'attività di emittenza sul web. Quindi tutti gli altri non sono assolutamente colpiti da queste norme. Quindi quelli che invece sono colpiti dalle norme devono fare alcune cose. Devono mandare una dichiarazione all'autorità dicendo che stiamo iniziando le trasmissioni, e questo è niente, chiaramente. Un'altra cosa che devono fare è pagare un costo di 500 euro nel caso web TV e 250 euro nel caso web radio. Ricordiamo che prima, nelle prime bozze, si parla di 3.000 euro e non una volta sola ma ogni anno, e non solo per le emittenti, quelli che guadagnano tanto, ma per tutte quelle. In questo caso insomma, c'è stato un miglioramento, potremmo dire. Comunque questo è in estrema sintesi quello che è stato deciso, ma da qui ripartiremo tra poco. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. 2024. Ricordate che è possibile riascoltare le nostre puntate attraverso il servizio podcast di Radio 24. Andate sul nostro sito internet nella sezione podcast, lì trovate tutte le informazioni, tutte le istruzioni. Se utilizzate software appositamente pensati e studiati che si trovano gratuitamente su internet per gestire i flussi podcast, bene, potete utilizzarli e scaricarle e scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Tutte le informazioni sono online oppure scriveteci una email a 2024@radio24.it. Stiamo parlando di queste norme contestate, criticate soprattutto in rete, che nascono da una direttiva europea recepita in Italia dal famoso decreto Romani, che molti ritengono abbia recepito queste norme in modo molto restrittivo, cercando di proteggere soprattutto gli interessi della old economy, quindi delle vecchie televisioni, dei gestori televisivi, più che delle radio, che insomma che hanno sicuramente un potere di lobbying meno forte rispetto alla TV e anche meno presenza nel passato di molti politici italiani. Bene, da qui poi l'autority ha dovuto prendere una serie di provvedimenti, di regole che questa settimana sono state approvate. Abbiamo detto, stiamo parlandone con Alessandro Longo che ha seguito questa vicenda, abbiamo detto che chi guadagna da un servizio radiofonico online o televisivo online più di 100.000 euro all'anno, beh, deve seguire queste regole, deve pagare una certa cifra, che magari adesso Alessandro ricordiamo, che comunque va detto è migliorativa rispetto a quello che si era pensato in un primo momento. Alessandro, adesso sono 500 euro una tantum solo all'inizio per le web TV e la metà per le web radio, mentre prima erano 3.000 euro l'anno per tutti, anche quelli che guadagnano pochissimo da questa attività. Quindi insomma c'è un grossissimo miglioramento. Prima, con le regole precedenti, probabilmente si sarebbero estinte tutte le piccole emittenti. Certo, a questo punto queste sono le sole due cose che vanno fatte per chi vuole fare radio o TV, ci sono altri obblighi? Sì, questo è solo per cominciare, Enrico. Poi sei soggetto, e questo è il punto più controverso che ancora continua a suscitare polemiche, proprio questo che ora sto per dire, le emittenti sono soggette, quelle che guadagnano più di quella cifra all'anno, sono soggette a tutti gli obblighi delle emittenti tradizionali, quindi proprio tutti, non c'è stato alcun distinguo a favore di internet. Allora, obbligo di iscrizione a un registro, registrazione dei programmi, tutela di minori, obbligo alla rettifica, quindi tutte quelle norme delle emittenti tradizionali, e questo causa polemica perché alcuni avrebbero voluto che insomma le norme tenessero conto delle caratteristiche di internet e anche del fatto che è un mercato molto giovane, no? E invece così non è stato. Allora, a questo punto, Alessandro, uno potrebbe domandarsi, ma se una persona ha un proprio sito internet, un blog oppure un'azienda che pubblica video per fare promozione dei propri prodotti su internet e magari su quel sito fattura più di 100.000 euro perché c'è un po' di commercio elettronico, perché c'è un po' di pubblicità, che cosa succede? Allora, no, non sei soggetta se non sei una web TV, quindi se sei un blog che ogni tanto mette qualche video, ma non è quella la tua attività principale, ecco, non sei una web TV e quindi non sei soggetto alla norma. Il video non deve essere incidentale o occasionale, scrive, si legge nelle norme, questo c'era anche già nel decreto Romani, che ricordiamo ha dato il via a tutto questo discorso. Quindi non, nessun problema per i blog, a meno che non siano, ecco, dei video blog specializzati, quindi in fin dei conti sono vere e proprie web TV e anche devono fatturare più di 100.000 euro, chiaramente. Da quell'attività è chiaro che se poi una web TV che vende un prodotto online, però dalla web TV, da quell'attività specifica, non guadagna 100.000, non è soggetto, deve essere un fatturato derivante dall'attività di trasmissione. Senti, e YouTube o siti analoghi che sicuramente fatturano più di 100.000 euro? Sì, certo, lì c'è un punto molto dubbio nel testo, cioè si dice che questi siti community, cioè dove i video non sono fatti dai gestori del sito, ma chiaramente sono fatti dagli utenti, questi siti rientrano solo se sono vere due condizioni. Cioè se queste hanno una responsabilità editoriale, cioè se in qualche modo costruiscono intorno a questi video una specie di palinsesto, hanno un'organizzazione, e se fanno concorrenza alla TV. Chiaramente, come vedi, non è facile determinare caso per caso, e del resto non si sa nemmeno chi e quale autorità dovrebbe determinare questo caso per caso. Quindi sicuramente ci sarà da dibattere ancora, e immagino, insomma, i giuristi cercheranno di dare le proprie interpretazioni nelle prossime settimane. Alessandro, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e buon weekend, a presto. Grazie Enrico, saluto anche gli ascoltatori. Sicuramente questo è un tema sul quale torneremo, ma c'è un punto di fondo, cioè si cerca di regolare fenomeni completamente nuovi con regole che oggettivamente sono vecchie, con delle modalità che ormai non c'entrano più nulla. Va detto che in Authority ci sono stati un paio di pareri contrari, e quindi qualche commissario che capisce che le cose stanno cambiando c'è sicuramente. Cambiamo argomento, parliamo di commercio elettronico. Molti di voi sapranno, l'abbiamo anticipato la settimana scorsa, ne abbiamo parlato anche a GR24, che da pochi giorni è arrivata Amazon in Italia, una rivoluzione, un segnale molto interessante per il mondo dell'e-commerce italiano. Abbiamo il piacere di ospitare nel nostro studio Diego Piacentini, che è vicepresidente di Amazon.com, come dicono gli americani Senior Vice President. Bentornato a 2024, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie. Tu ti occupi delle attività internazionali di Amazon, che si sono estese in 8 paesi, con l'Italia siete arrivati all'8º paese. Se uno non vi conosce, voi siete noti, avete un marchio molto noto, molti vi conoscono, devo dire che forse molti vi conoscono come libreria online, ormai poi non vendete più solo libri. Se uno non vi conosce, come vi presentate? Noi siamo un negozio di dimensioni gigantesche che vende tutti i prodotti possibili, come hai detto tu, non solo libri, dove le vetrine sono praticamente lo schermo del computer o lo schermo del telefonino. Quindi vendete anche, poi dipende dai paesi, ma anche gli elettrodomestici, gli alimentari. Sì. Infatti siamo partiti ad esempio in Italia già lanciando piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, giocattoli. In altri paesi vendiamo anche abbigliamento, scarpe, alimentari, e conteremo di vendere anche questi prodotti in Italia nel futuro venturo. Fino a pochi giorni fa, quando Amazon.it non esisteva, un cliente italiano poteva comprare in qualunque, ancora oggi può, certo, comprare in qualunque altro negozio, tant'è che 15 anni fa, quando Amazon è nata, un cliente italiano, dopo appena un mese, uno molto smart probabilmente, ha comprato qualcosa dal sito americano. Che cosa cambia col .it al di là della lingua, che è comunque importante? Certo, ma chiaramente, come hai detto tu, la lingua è il fatto che vendiamo adesso anche tanti prodotti italiani, quindi chiaramente libri italiani, musica italiana, film italiani, e il fatto anche che adesso le spedizioni, i costi di trasporto sono bassissimi, le spedizioni sono velocissime, perché spediamo i prodotti in maniera molto veloce per i clienti italiani. Può sembrare strano, però esiste il .it, ma non esiste nulla nel nostro paese, perché questa è una delle caratteristiche dell'e-commerce, cioè poter gestire una piattaforma di vendita senza essere presenti in quel paese. Questo vale anche per aziende italiane che vendono all'estero. Certo, chiaramente abbiamo parecchi dipendenti italiani che si occupano del sito italiano, ma tutto ciò è indipendente da dove è la scrivania fisica di queste persone. Voi avete detto, tu hai detto, vogliamo diffondere il commercio elettronico moltissimo tra le famiglie italiane. Alcuni esperti dicono che probabilmente il fatto che Amazon arrivi in Italia, questo è un significa che il mercato è maturo. Come si fa però a diffondere l'e-commerce in un paese che sì, ha visto tassi di crescita interessanti, ma che ancora vede il commercio via internet ancora molto basso? Innanzitutto con il miglioramento dell'offerta. È un po' il gatto che si mangia la coda. Se la domanda è bassa, l'offerta non migliora e continua questo circolo. Riteniamo che entrando sul mercato italiano con un'offerta qualificata, milioni di prodotti, prezzi molto bassi, spedizioni molto veloci, e concedere al cliente la possibilità di restituire il prodotto se non era quello che voleva comprare, quindi rendere anche facile la restituzione dei prodotti, migliorando in questo modo l'offerta, man mano anche la domanda capirà la qualità dell'offerta e crescerà. Tieni conto che noi abbiamo pazienza, cioè noi investiamo sul mercato italiano come sugli altri paesi con un'ottica di lungo periodo, non ci interessano i dati del mercato del commercio elettronico di oggi o di quelli tra 6 mesi e quelli di un anno, la nostra ottica è di 5-10 anni. Che vedendo come vanno le cose nel mondo non è una cosa comune, perché si guarda spesso al breve periodo, molti amministratori delegati guardano al breve periodo. È vero, se tu leggi la lettera agli azionisti di Jeff Bezos dal 1997, lui da allora ha sempre detto: questa è un'azienda che non ottimizzerà le proprie attività per i risultati trimestrali, ma per il lungo periodo. E ogni anno ripete sempre una copia di quella lettera agli azionisti. Ripete anche una cosa che mi ha colpito molto, che ogni tanto cito, che nell'era del web 2.0, secondo Bezos, noi siamo allo 0.2. È possibile che l'abbia detto. Noi diciamo è day one. Nonostante il commercio elettronico esista da 15 anni, nei grandi schemi di come si evolverà lo shopping è veramente ancora day one. Come fate a portare traffico sul vostro sito internet? Cioè in internet in generale, secondo voi, come si fa ad attirare l'attenzione dei clienti? Certo, noi abbiamo sviluppato parecchie metodologie che vanno dall'ottimizzazione dei motori di ricerca, che vanno a campagne di mail non invasive ma basate sulla richiesta dei consumatori, all'utilizzo di quelle che noi chiamiamo affiliazioni. Ci sono milioni di siti nel mondo che hanno offerte di Amazon che sono centrate sulle topiche di quel sito. Quindi se c'è un sito che parla di calcio, ad esempio, e questo sito è un affiliato di Amazon, in automatico Amazon produce su quel sito prodotti relativi a quello di cui il sito sta discutendo, di cui sta parlando, che vanno dalla scarpa di calcio al libro sul calcio. Quindi io vado sul sito, leggo le mie cose sul calcio e vedo anche l'offerta di Amazon libri che c'entra, o di altre articoli cose. Sportivi che c'entra su quello che stai leggendo. Questi chiaramente sono algoritmi di ricerca e di sviluppo molto sofisticati. E io che ho questo sito ricevo qualche cosa in cambio? Assolutamente sì. Infatti è una... chi muove traffico sul sito di Amazon e quel traffico acquista dei prodotti, il sito che ha mosso, che ha portato il traffico su Amazon riceve una commissione. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, questo è 2024, siete su Radio 24, riprenderemo tra poco. Seguiteci ogni settimana, andiamo in onda il sabato nel pomeriggio tra le 16 e le 17, oppure ci trovate quando volete online. A proposito del quando volete, prima abbiamo parlato del web TV, delle web radio. Una delle regole che dovranno seguire se fatturano più di 100.000 euro, se tutta una serie di altre condizioni, sarà quella della tutela dei minori, così come devono seguire queste leggi le TV tradizionali. Bene, su internet una grande discussione è, visto che questi servizi si applicano anche per siti internet non lineari, quindi non hanno un palinsesto con orari prestabiliti, che quindi forniscono video su domanda, on demand. Bene, in questo caso gli orari che la legge prevede per la tutela dei minori, quindi dalla talora alla talora non puoi mettere in onda contenuti che sono sicuramente dannosi per i minori. Bene, in questo caso come questa regola può essere ottemperata? Bene, questo è un esempio di quello che dicevamo prima, cioè di regole vecchie che si cerca di applicare a servizi completamente nuovi. Ma riprendiamo la nostra trasmissione, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete scriverci, 2024@radio24.it. Non dimenticate il servizio podcast, stiamo parlando di commercio elettronico, di come le cose cambiano con l'arrivo di Amazon.it. Sentiremo poi anche gli altri operatori italiani nel corso delle prossime settimane. È con noi Diego Piacentini, che è Senior Vice President per le attività internazionali di Amazon. Come state interpretando la dimensione social di internet. Voi mi sembra di capire che, ad esempio, sui social network non credete moltissimo. Innanzitutto devi tenere a mente che con le customer reviews, quelle che adesso sul sito italiano chiamiamo recensioni dei clienti, create nel 1995, si è di fatto creata la prima attività di social network. Cioè Amazon nel 95, adesso questo sembra un fenomeno normalissimo, ma prima non esisteva, nel 95 ha dato la possibilità ai clienti di scrivere recensioni positive e negative. Era questa la parte rivoluzionaria, e negative sui prodotti. Quindi, diciamo, questo vi piace, questo lo continuate a fare. Però su Facebook dite non ci interessa molto. Ci sono, in Italia sta girando anche un video su YouTube che critica quelle aziende che portano traffico gratis o comunque dati dei clienti gratis a Facebook senza guadagnarci nulla. Ecco, voi come vedete questo fenomeno? Ma è un fenomeno che deve essere ancora capito come utilizzo per il commercio elettronico. Poi chiaramente Facebook, come altri social networking, sono diffusissimi. Chi non ha figli che usa Facebook, io ho anche la fortuna di essere stato invitato come friends dai miei figli, quindi finché si accorgeranno che so più di quello che vogliono che io sappia. Sì. Però l'utilizzo effettivo per il commercio elettronico è ancora da capire. Noi stiamo facendo sperimentazioni negli Stati Uniti, in altri paesi, per vedere come legare la scelta, l'attività del cliente, del potenziale cliente su Facebook o su altri social networking e invogliare l'acquisto di prodotti. Però se parliamo di day one, questo ancora siamo day zero. Ok. Quello che gli esperti chiamano M-commerce, noi ormai citiamo l'e-commerce, diamo per scontato che tutti sappiano che cos'è. Dall'e-commerce si sta cercando di passare al commercio attraverso i telefonini, quindi mobile commerce. Ci credete? È interessante? Ah, è sicuramente una delle, sarà una dei, è e sarà uno dei propulsori maggiori del commercio elettronico. Non a caso, ieri non solamente abbiamo lanciato Amazon Italia su computer, ma anche su telefonino. Quindi abbiamo già la versione ottimizzata per telefonino. Nei prossimi mesi lanceremo anche una versione per iPhone application, Android application, così come abbiamo negli altri paesi. Gli smartphone e soprattutto i tablets saranno un propulsore elevatissimo sul commercio elettronico. Noi abbiamo già visto in Giappone, dove la parte M-commerce è nata ben prima che in altri paesi, con i loro sistemi proprietari, e un elevato numero, una percentuale elevatissima delle nostre attività online avviene tramite persone che acquistano col loro telefonino. E la stessa cosa sta succedendo negli ultimi due anni negli Stati Uniti e in Europa con l'avvento degli smartphones. Questo è legato anche ai sistemi di pagamento? Perché il telefono, se diventerà presto, come penso sia, forse magari in Giappone lo è già, un sistema di pagamento, questo agevolerebbe tutto. In questo momento, no, tieni conto che chi acquista su Amazon su un telefonino acquista con il proprio account. Quindi di fatto usa già le proprie cosiddette credenziali, sì, che ha nell'account di Amazon. Quindi da quel punto di vista il problema, diciamo che il telefonino non risolve il problema dei pagamenti. Il problema dei pagamenti è già stato risolto a monte. Voi dite, ed è una cosa curiosa magari in Italia, che è un falso problema quello di quei consumatori che dicono: ah, ma io se vado online non riesco a vedere bene le cose. Beh, è vero che a volte le foto non sono, certo, un granché. Per voi non è un problema? È sicuramente un'area di focalizzazione, cioè la parte immagine, la parte informazione di prodotto è una delle cose su cui teniamo molta cura. Ad esempio, nei paesi in cui vendiamo abbigliamento, scarpe, orologi come quelle che abbiamo lanciato anche in Italia, la maggior parte delle fotografie dei prodotti viene fatta addirittura nei nostri studi di fotografia, perché spesso i fornitori non hanno la qualità d'immagine che noi vogliamo per i nostri clienti. L'immagine su internet diventa sempre più importante, tanto che ad esempio, non l'abbiamo citato, ma i clienti possono non solamente scrivere la recensione, ma possono fare un video della propria recensione e metterlo su Amazon in automatico. La vera soluzione però non è solamente l'immagine, ma comunque rendere il sito non appesantito dalle immagini. Perché mettere immagini su un sito è facile, mettere immagini su un sito e mantenere il sito comunque molto veloce è la cosa più complicata. Sì. Vedo che molti produttori non mettono grandi foto nemmeno sui propri siti, quindi immagino che poi anche a voi ne forniscano poco. Ma al di là delle fotografie, i prodotti, secondo voi, sono pensati per l'e-commerce? Allora, il prodotto di per se stesso come impacchettamento non è pensato per l'e-commerce. Da 2 o 3 anni a questa parte noi stiamo lavorando con le aziende che producono, con i distributori, per creare il packaging, l'impacchettamento per l'e-commerce. Faccio un esempio: quando uno va a comprare una memory card, quando un cliente con una memory card in un negozio, spesso si trova a comprare una confezione di plastica durissima che devi tagliare con le forbici, rischi spesso di farti sanguinare le dita delle mani, quando invece basterebbe mettere la memory card in una piccola scatola, spesso in una busta, perché con l'e-commerce non hai bisogno di proteggere dal furto o di renderla visibile. Ed è quello che stiamo facendo. Quindi questo sarà anche un nuovo cambiamento del packaging, della supply chain. Noi abbiamo ingegneri specializzati nel re-engineering del packaging, ad esempio. Ecco, questo è un aspetto interessante da raccontare agli ascoltatori, che voi buona parte o tutto quello che fate lo fate in casa, giusto? Cioè, dal punto di vista dello sviluppo software, assolutamente sì. Ecco, che cosa, quando si parla di business intelligence, quindi di studio di quello che accade online, della raccolta, dell'elaborazione dei dati, del traffico online, da questo punto di vista che cosa fate per capire che cosa? Ma noi abbiamo innanzitutto migliaia di sviluppatori software. Ne abbiamo migliaia che sono in varie parti del mondo, non solamente negli Stati Uniti. E se parliamo ad esempio della parte che tu hai definito business intelligence, che comunque l'utilizzo dei dati per capire il comportamento dei consumatori sul sito, quello che i clienti vedono visibilmente, che è fonte comunque di sviluppo software intensivo e approfondito, sono ad esempio le raccomandazioni, le personalizzazioni. Quindi tu che hai comprato questo prodotto sappi che gli altri che hanno comprato questo prodotto hanno comprato anche queste altre cose. Oppure se hai comprato questa macchina fotografica, in automatico ti faccio vedere quali sono gli accessori migliori, dove però magari metto dei filtri di selezione per cui io ti do gli accessori, ti faccio vedere gli accessori che ai clienti piacciono, quindi per cui le customer review sono di 5 stelle. E tutto questo, per renderlo molto facile al cliente, in genere richiede degli sviluppi software molto complessi. Questa è la parte, diciamo, che si vede, che i consumatori vedono. Esatto. Che cosa invece riuscite a scoprire? È chiaro che alcune cose sono segreti industriali, però che tipo di studi fate per capire che cosa? Ma noi, vedete, il fatto che tu abbia usato la parola studi è interessante. La fortuna di un'azienda che vive sul commercio elettronico, quindi è la possibilità di non dover fare degli studi, ma semplicemente analizzare dei comportamenti. Quindi è l'analisi del percorso dell'utente sul sito, piuttosto che l'analisi del percorso dell'utente dal momento in cui acquista un prodotto, fa click sul prodotto e arriva nella shopping cart, quindi nel carrello di checkout, quindi nel momento in cui, uso terminologia americana, il checkout, quando effettivamente chiudi la transazione. Quando pago, insomma. Quando paghi, esattamente, sì, è anche molto più semplice. Tutti questi comportamenti ci consentono di creare un'offerta ancora migliore per il cliente. E torno a dire, sono sviluppi algoritmici dove abbiamo matematici, statistici, sviluppatori software che mettono in gioco la loro intelligenza per cercare sempre di migliorare l'offerta. Questo sicuramente, diciamo, la base che voi avete già costruito vi favorisce nell'apertura di nuovi negozi, come anche il punto it, perché basta poco per fare un nuovo negozio. Esattamente, cioè, poco per dire, però giustamente come hai detto tu, in questo momento per lanciare un nuovo paese la parte più complessa non è più la parte tecnologica, perché abbiamo 15 anni di dati, ma è la parte che il cliente non vede. Il back office, le operation, il customer service, quindi è dove mettere i magazzini, quanto velocizzare il momento tra cui il cliente fa click per acquistare qualche cosa e il prodotto giunge alla casa del cliente. Tutti questi sono invece sviluppi software, anche questi complicatissimi, che però i clienti non vedono. Sì. Adesso, non vorrei parlare di logistica, però un punto mi sembra interessante. Voi, nei confronti dei corrieri che spediscono e portano la merce a casa del vostro cliente, siete un po' come le compagnie aeree con le società che muovono i bagagli. Che tipo di rapporto c'è? Siete soddisfatti, certo, guardando anche all'Italia? Perché la responsabilità poi alla fine è vostra, cioè se non mi arriva qualche cosa io mi lamento con voi, così come mi lamento con la compagnia aerea, che poi mi dice: ah, la società di handling non è riuscita a smistare il bagaglio. Partiamo da questa affermazione che enfatizza su un punto molto importante. Se un cliente ci chiama, ci manda un'email dicendo la macchina fotografica digitale che dovevo ricevere 3 giorni fa non l'ho ancora ricevuta, noi verifichiamo che il trasportatore ce l'aveva ma non l'ha consegnata, non diciamo mai è colpa del trasportatore, diamo subito immediatamente una nuova macchina fotografica digitale, perché poi è il nostro problema gestire i rapporti con il trasportatore. Quindi ci prendiamo comunque la responsabilità, anche se effettivamente il prodotto si è perso nel trasporto, ad esempio. Capita rarissimamente, però le poche volte che capita agiamo in questo modo. Quello che gli americani chiamano last mile delivery, quindi proprio il fatto di dare la spedizione, il prodotto in mano al cliente. L'ultimo miglio, anche l'ultimo in questo miglio. Caso come nella telefonia. Anche l'ultimo miglio. È frutto anche quello di integrazione. Ad esempio, nel momento in cui il prodotto va dal nostro magazzino sul camion del trasportatore, anche il software nostro si integra con il software del trasportatore e il cliente di Amazon va sul proprio account e può vedere esattamente a che ora è stato dato al camion, a che ora transita dal hub numero 1, a che ora arriva nella città di dove deve arrivare e a che ora è uscito il trasportatore per la consegna. Quindi adesso c'è una trasparenza completa nella logistica. Ma voi siete soddisfatti di quello che stanno facendo i corrieri? Ma sull'Italia, noi adesso stiamo lavorando su quelli che storicamente ci hanno dato fiducia quando spedivamo ad esempio dagli Stati Uniti piuttosto che anche dall'Inghilterra ad altro. Anche lì abbiamo un processo di controllo qualità, così come in Italia ma come anche in altri paesi. Se vediamo che ad esempio un corriere riceve molte più lamentele di altri, tirate le orecchie, interveniamo, cerchiamo di migliorare, a volte dobbiamo anche rescindere il rapporto. Dunque devo fare alcune e ultime domande, una sul Kindle, perché alcuni si chiedono, allora per evitare che poi fra poco mi arrivi un'email e mi dica ma non hai chiesto nulla del Kindle, non c'è disponibile sul negozio italiano, giusto? Kindle non è disponibile sul negozio italiano, Kindle per gli italiani è vendibile tramite Amazon.com. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che se un cliente ha già un account su Amazon.com o Amazon UK o in Germania o Francia, non deve ricreare un account su Amazon Italia. Può usare lo stesso account, con la stessa password e tutti i dati sono già dentro. Quindi lo compri su Amazon.com e ti arriva in 2 o 3 giorni. La maggiorante parte dei contenuti chiaramente in lingua inglese, però ad esempio ci sono più di 2000 titoli in italiano già. Ecco, come vedete l'evoluzione dei contenuti per gli ebook in Italia? Ma guarda, la nostra visione su Kindle è quella di avere Kindle in tutte le lingue in tutti i paesi. Chiaramente ci siamo focalizzati per ovvi motivi sulla lingua inglese e man mano ci espanderemo ad altri paesi e ad altre lingue. Quindi noi crediamo fortemente nello sviluppo di Kindle, crediamo fortemente nello sviluppo del libro come contenuto e quello che ti posso dire è che i nostri dati ci dicono con assoluta certezza che chi compra Kindle compra più libri. Questo è interessante. Potrebbe valere anche per la musica, che è un altro punto che volevo toccare, perché voi non vendete musica in Italia, mentre lo fate in altri paesi. Noi vendiamo musica su CD, intendevo, e abbiamo 400.000 titoli. Sì, però sì. In altri paesi abbiamo un MP3 store, in questo momento in Italia non ce l'abbiamo ancora. Perché? Anche lì questione di priorità, abbiamo deciso di lanciare con le categorie, cioè, di non prodotto è un problema fisico. di diritti di case discografiche? No. Ma voglio dire, chiaramente per lanciare un MP3 store devi fare gli accordi con le case discografiche, però in questo momento abbiamo deciso di partire con prodotti fisici e poi man mano nel tempo penseremo anche a prodotti digitali. Un mio amico ha detto, ma chi compra ancora oggi i CD di musica? Ma guarda, ce ne sono ancora tantissimi, per due motivi. Uno, perché tanta gente li compra e poi fa il burn e li usa in altro modo. Ma numero due, perché l'offerta fisica di CD si sta riducendo. Ci sono molti meno negozi di una volta. Anche le grandi distribuzioni hanno molti meno spazi riservati al CD musicale, quindi questo per noi è un'opportunità incredibile, perché noi non solo continuiamo a vendere i CD, ma continuiamo a averne sempre di più. Sì. L'ultima domanda per tornare all'inizio. Dicevamo, voi vendete non proprio tutto, però molte cose, i libri da cui siete partiti, perché voi eravate una libreria online, giusto? Quanto pesano oggi sul vostro business? Guarda, il fatturato che noi chiamiamo mediale, che sono libri, musica e DVD, quindi contenuti, adesso rappresenta poco meno del 40% del fatturato totale, quando una volta era il 100%. Bene, io ringrazio Diego Piacentini per essere stato con noi. Dico spesso a persone come te buon viaggio, perché immagino che... Domani riparto. Esatto. Buon viaggio, a presto. Grazie. Abbiamo un'ultima parte dedicata al Wi-Fi, sperando che dall'inizio dell'anno questo servizio venga liberalizzato. Saluto Massimiliano Mazzarella, che è amministratore delegato di Future 3, una società che si occupa di Wi-Fi. Benvenuto 2024. Buongiorno a tutti voi. Voi siete partiti e avete base in Trentino, dove avete realizzato già da tempo una rete Wi-Fi gratuita. Allora, partiamo da questa rete. Quanto è grande e per quale motivo è gratuita? Perché questo è un elemento, certo, importante. Noi in questi ultimi 3 anni abbiamo sviluppato una rete che ad oggi, tecnologicamente una rete mesh, copre circa 45 km di strade delle 3 principali aree urbane del Trentino, quindi Trento, Loreto e Riva del Garda. E da circa 3 mesi abbiamo esteso i servizi, di cui dopo magari parleremo, a altri 450 punti in 120 comuni del Trentino, utilizzando un'infrastruttura preesistente di proprietà della provincia autonoma di Trento. Questa infrastrutturazione è nata per sviluppare una serie di applicazioni cofinanziate da un progetto di ricerca denominato Luna, che aveva proprio lo scopo di sviluppare applicazioni, e è stato cofinanziato anche questo dalla nostra provincia autonoma di Trento. Quindi diciamo che il punto di partenza era costruire la rete Wi-Fi, anche quella supportata da... No, la rete Wi-Fi è un completo investimento privato, e soprattutto in un'ottica di creare un modello replicabile abbiamo scelto come soci di non appoggiarci a enti pubblici, quindi l'installazione di queste antenne è stata fatta con un rapporto one-to-one con i pubblici esercizi, piuttosto che attività che ci davano disponibilità di ospitare questi access point. Poi parliamo anche dei servizi, ma rimaniamo sulla fase di infrastruttura. Voi avete realizzato questa rete, insomma, che è piuttosto capillare. Questo significa che io con uno smartphone o un computer portatile giro, passeggio, mi fermo, mi siedo e posso connettermi tranquillamente, gratuitamente, giusto? Certo, gratuitamente. È una rete che può essere fruita in gran parte in mobilità, anche se ad oggi abbiamo verificato che gli utenti hanno comunque un atteggiamento nomadico, ma in ogni luogo è possibile accedere gratuitamente. Questo per un modello basato sul numero di utenti che vogliamo raggiungere. Inizialmente, quando è nato il progetto, abbiamo messo come punto saldo il concetto che l'accesso deve essere gratuito, non tanto perché siamo dei benefattori, ma semplicemente perché puntiamo a un numero molto elevato di utenti che abitualmente utilizzano la nostra rete. Quindi per poi erogare servizi, cioè voi dite l'accesso è gratuito, i servizi qualcuno li paga, o l'utente finale o poi vediamo, certo, chi altro. Ma una cosa interessante è capire questa rete che tipo di evoluzione avrà, perché voi non siete solo in Trentino ma anche già in altri punti d'Italia, ma comunque puntate ad arrivare in altri punti d'Italia, certo. In che modo? Allora, come dicevo prima, la rete è nata inizialmente per sfruttare al meglio quelle che potessero essere le potenzialità della mobilità. Poi in corso d'opera abbiamo visto che tutto sommato questo non era il valore principale della rete stessa, e quindi abbiamo dirottato le tecnologie che abbiamo sviluppato completamente all'interno di Future 3 su dispositivi che possono essere collegati a ADSL, se non altre fonti di accesso ad internet, ed erogare servizi creando una nuvola Wi-Fi, quindi un hotspot. In questo modo non abbiamo più posto limiti a quella che è la nostra espansione, quindi anche se noi installassimo qua al Sole 24 Ore un nostro prodotto, avreste una nuvola Wi-Fi, sareste liberati da tutti quelli che sono gli adempimenti burocratici, e gli utenti che si connettessero con il nostro sistema accederebbero a quelli che sono i servizi da noi sviluppati. Parliamo, visto che li abbiamo citati un po' troppo spesso, questi servizi, che cosa intendete per servizi? Cioè io sono di fronte a un hotspot a cui accedo gratuitamente, posso, immagino, navigare in internet, certo. E poi quali sono questi servizi? Ma partendo dal presupposto che, e questo è il punto di vista che abbiamo cercato di cambiare, che questo è uno strumento di comunicazione, abbiamo ragionato sul fatto che nel momento in cui un utente si connette alla nostra rete è su una rete interna e privata, e quindi è possibile catalizzare questa potenzialità. In che modo? Somministrando delle informazioni che siano il più possibile contestualizzate al luogo in cui la persona si connette. Quindi facciamo un esempio. Io mi connetto in Piazza del Duomo a Milano, italiano, accedo dalla mia pagina di login, accedo ad un portale che è il portale Luna, in cui vedo le persone che in quel momento sono connesse intorno a me e sulla nostra rete, vedo gli eventi che su un raggio diciamo di n chilometri che può essere parametrizzato, vedo delle news contestualizzate magari a Milano o a Piazza del Duomo e quindi posso interagire con loro. Non vogliamo però diventare un portale di contenuti, ma semplicemente un viatico preferenziale verso contenuti che già nell'etere ci sono. Poi durante la navigazione, con un sistema di informazioni interstiziali, possiamo somministrare al nostro utente delle informazioni durante la navigazione tra una pagina e l'altra, che possono essere estremamente profilate sull'utente, georeferenziate e contestualizzate. Chi paga questi servizi? Allora, il modello prevede ad oggi che chi è interessato a offrire una connettività Wi-Fi ai propri utenti barra clienti si faccia carico di parte dell'infrastrutturazione e di un canone base per la gestione di quelli che sono i log e il mantenimento stesso della rete. Quindi se io sono un bar oppure un albergo, pago un canone per offrire ai miei clienti questo servizio gratuito, sì, giusto? Sì, sì, si parte da un paio di centinaia di euro, sono questa l'entità dell'investimento. A mese, anno? All'anno, ok. Quindi 100 euro up front e 100 euro di canone annuo come diciamo base. Sì. Poi quello che noi andremo a maturare e far diciamo le revenue che andremo a creare sulla nostra rete grazie a inserzionisti piuttosto che servizi a valore aggiunto serviranno per creare quei fondi per sviluppare applicazioni sempre più evolute che potranno arrivare nelle mani dei nostri utenti. Quindi chi si fa promotore della rete, dallo startup, il mantenimento e lo sviluppo vogliamo renderlo sostenibile. Non è impensabile che in futuro, quando il mercato fosse sviluppato e gli investitori capissero questo strumento di comunicazione, anche l'infrastrutturazione potesse essere a carico di chi è interessato a veicolare informazioni. Sì. Questo vuol dire però che se io, gestore di un bar, di un ristorante, di un albergo o pubblica amministrazione, certo, volessi offrire ai miei cittadini o ai miei clienti un servizio di navigazione Wi-Fi gratuita, togliendomi tutti i problemi burocratici di gestione, anche tecnici, certo, di gestione di una rete Wi-Fi, io potrei anche rinunciare a questi servizi, cioè pago un canone base, punto e basta, giusto? Ma in realtà noi i servizi li eroghiamo comunque e sempre, okay, perché riteniamo che sia un valore aggiunto alla rete, e ad oggi troviamo riscontro proprio nelle contatti, nelle telefonate che ci arrivano un po' da tutta Italia. E soprattutto, e questo lo tengo a precisare, noi non siamo legati all'hardware. Infatti in situazioni dove esiste già una rete Wi-Fi possiamo agganciare un nostro client piuttosto che un gateway di turno e dirottare tutto il traffico generato da questa rete all'interno dei nostri sistemi e quindi erogare in tempo immediato tutti i servizi che abbiamo sviluppato. Chi è che è maggiormente interessato? Voi già da 3 anni avete questa rete, pubblica amministrazione o esercizi pubblici? Allora, ad oggi, come bar, ristoranti, cioè. Grazie anche a tutti i rumori che ha generato questa presunta liberalizzazione del decreto Pisanu, questa liberalizzazione, c'è molto interesse dall'ente pubblico, no? Che quindi vuole spingere in questa direzione e vede in noi, abbiamo diciamo realizzazioni da Trieste, Udine, Rimini, Bologna e anche in altre aree d'Italia, vede un passo in più, perché dicono a parità di costi e magari spendendo anche meno ho una potenzialità di servizi in più e per raggiungere i miei cittadini che comunque, come dicevo prima, si connettono a una rete e quindi perché non utilizzare questo canale di comunicazione. Poi i pubblici esercizi in secondo luogo, quindi bar, ristoranti e hotel, anche se sono dei target particolari. Ma soprattutto stiamo sviluppando delle linee di prodotto dedicate a chi vuole, non so, catene di prodotto, quelli che si chiamano flagship shop, volessero offrire connettività all'esterno del proprio negozio, della propria catena, sfruttando questo sistema come un sistema di pubblicità iperlocale. Sì. Cioè questo vuol dire, ad esempio, che io sono un negozio che vende saponi e sì, ho magari 100 negozi in tutta Europa o in tutta Italia, certo, voi con questo sistema, con questa tecnologia fate sì che io cliente vada davanti al negozio o entri nel negozio e col mio smartphone posso navigare in internet, quindi certo, guardare la mia posta elettronica, farmi gli affari miei, sì, però ogni tanto mi appare una pagina in cui c'è scritto il negozio Saponi 2000 ti offre questo sconto fino a domattina. Certo, qui si entra nel marketing, assolutamente. Quindi noi siamo dei fattori abilitanti. Poi quello che il marketing della catena in questione o comunque del negozio in questione vuole sviluppare è tutto da inventare, cioè, fantasia e basta. L'importante, e anche in questa direzione abbiamo sviluppato delle applicazioni per device mobili, è automatizzare il più possibile l'accesso alla nostra rete, perché nel momento in cui una persona deve passare per l'inserimento di un utente password, comunque è una perdita di tempo e magari per una fruizione di pochi secondi non ha senso. E quindi adesso abbiamo dei client che vengono sviluppati su una piattaforma che si chiama Qi, per iPhone, iPad, BlackBerry e Symbian, che nel momento in cui si trovano un'area coperta da Friluna, questo è il nome della rete, automaticamente salgono online e entrano nella community che stiamo creando. A proposito di autenticazione, visto che fino alla fine dell'anno, poi speriamo che insomma, le promesse fatte vengano mantenute, quindi dal primo dell'anno ci sia questa sorta di liberalizzazione che non sappiamo ancora come verrà fatta. Comunque, ad oggi c'è ancora l'obbligo di registrazione sulle reti Wi-Fi pubbliche. Voi come la gestite? Noi la gestiamo come è stato autorizzato da una circolare del Ministero degli Interni nel 2007, quindi gli utenti italiani ricevono la user ID e la password sul proprio cellulare, gli stranieri attraverso un sistema di carte di credito versano un euro e abbiamo, diciamo, il legame dell'utente alla carta di credito. E quindi, diciamo, si presume che sia identificabile l'utente. E voi pensate di continuare a fare questo? Ma noi pensiamo di continuare a fare questo, uno perché sennò tutto il gioco non funziona, cioè, sì, nel senso che la profilazione dell'utente è fondamentale. Certo, ma la profilazione dell'utente non è un qualcosa che deve essere percepito come negativo. In realtà, se vado a somministrare informazioni che possono essere di utilità dell'utente, l'utente stesso ha interesse ad essere profilato. È ovvio che se sfocio nello spam o cose di questo genere è tutt'altra cosa. Però la mera autenticazione ad oggi, possiamo permetterci di dirlo, non è lo scoglio che impedisce la diffusione del wifi. Noi abbiamo registrato 50.000 persone con un ritmo di alcune centinaia al giorno, quindi non è vero che non si registrano. Sono altri problemi, sono problemi di normative, che non posso installare access point sui lampioni, piuttosto che devo avere a che fare con normative alle volte comunali, provinciali, piuttosto che statali. E una, mi permetto di dire, anche un'amministrazione non, cioè, ha comunque la necessità di registrare, perché se io accendo un access point in Piazza del Duomo e tutti i ragazzi possono accedere indiscriminatamente a qualsiasi sito senza tenere alcuna traccia, penso che anche l'immagine della pubblica amministrazione possa essere toccata. E comunque è responsabile sempre il proprietario della linea sulla quale vengono fatti delle transazioni IP. In questo caso quindi il responsabile chi è? Visto che voi fornite tutto, cioè in anche questo caso l'access point. Completamente noi, nel senso che tutte le richieste vengono fatte direttamente da Futur3 al Ministero piuttosto che agli organi locali, e il nostro cliente in questo caso deve solo preoccuparsi di identificare i luoghi dove installare gli access point. Quindi la polizia postale, nel momento in cui viene da noi direttamente, nel momento in cui trova un problema viene direttamente da noi e in gergo tecnico ce lo smazziamo noi. Certo, quindi io me ne lavo le mani, sia che io sia pubblica amministrazione sia che assolutamente. Concludendo, se io ho un negozio, un bar, o sono una pubblica amministrazione con un luogo pubblico, che sia una piazza o una biblioteca, di che cosa ho bisogno? Di una connessione ad internet e poi pensate tutto a voi? Sì, posso o attivare una connessione ADSL ad hoc, piuttosto che utilizzare una connessione preesistente del comune, perché comunque il traffico generato dai nostri access point viene incapsulato e quindi arriva ai nostri server farm sempre senza intaccare. Come avete fatto in Trentino, insomma. Come è fatto in Trentino, come adesso stiamo facendo, ad esempio, il primo esempio lo stiamo facendo a Madonna di Campiglio, che stiamo infrastrutturando con questa tecnologia, piuttosto che appunto a Trieste o a Udine. E dopo noi installiamo l'access point e l'ente comunale si fa carico di parte dei costi per coprire l'infrastrutturazione che è il mantenimento della rete stessa. Bene, io ringrazio Massimiliano Mazzarella per averci raccontato questo, che è un modello di business su cui si può fondare un'azienda, ma come tengo spesso a sottolineare, la diffusione di internet, certo. Perché a me preme questo, poi naturalmente voi giustamente dovete fare business su questo. Grazie e buon lavoro, a presto. Grazie a voi. E per questa settimana abbiamo concluso, questa è la versione podcast di 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie ad Anita Panizza in redazione, Valeria Bernardi in regia che si è occupata della parte tecnica anche relativa alla pubblicazione del podcast. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, scriveteci per qualsiasi motivo. e soprattutto suggerite il download del file MP3 di 2024 ai vostri amici, ai vostri colleghi, soprattutto ai politici che ancora in molti casi non capiscono che l'unica strada per lo sviluppo economico del nostro paese passa attraverso l'innovazione tecnologica, la diffusione delle reti, sia l'infrastruttura ma poi anche la cultura di internet. Grazie ancora, buon ascolto con i nostri programmi, appuntamento alla prossima settimana. You are disconnected.